Capirete bene che il mio carrettino a mano è condizione elfica. L'uso di un mezzo manuale, senza motore, ha abbassato le mie quotazioni fino alla periferia dell'umano e la vergogna mi accompagna. I carrellisti sono pochi, almeno rispetto agli operatori rasoterra. Cercano di mantenere rapporti umani più solidi con i sacerdoti delle caste superiori. Hanno un'identità più presentabile. A loro è delegato il compito di caricare i camion che porteranno le nostre creature allo stabilimento di destinazione. Devono contrattare con i camionisti napoletani i tempi di carico del prodotto finito e di scarico dei contenitori vuoti, bere caffè dalle macchinette, ridere delle battute che rivolgono alle femmine intorno in un dialetto incomprensibile. Sono approcci rudi ma rispettosi. Alcune femmine mostrano di gradire, pur tenendo una guardia alta. I cavalieri possono interloquire con la Medri, il customer contact, la donna coraggiosa che riceve gli ordini direttamente dal cliente, interpretandone i capricci e districandosi tra le imprecisioni. È lei che comunica i numeri e i codici da produrre, ma la sua giurisdizione sembra non conoscere confini. La Medri ha diritto di vetro su ogni acaro che aleggia nell'aria. Penetra in ogni flusso informativo, sa tutto, prevede tutto, ricorda tutto, entra su ogni palla giocata da prima della classe. È lei, la bambina con lo chignon, che ci perseguita dalle elementari, che alza il braccio perché la risposta alla domanda della maestra la sa da sempre, riposa dentro di lei. Ha fama di insostituibile santa che risplende in questo luogo di tenebre. Io la farei mangiare dai leoni, solo io. È amata, temuta, ammirata. La Medri ha il metabolismo di una cavalletta impazzita. Io sono chiuso nel pregiudizio. Covo forse invidia? Non so. Di certo è più efficiente e talentuosa rispetto al sottoscritto, immensamente più dotata. La Medri è apprezzata dagli schiavi della catena di montaggio, poi su, fino ai sacerdoti, è considerata una brillante specialista, sangue freddo, precisione e quel pizzico di isteria che la fa sembrare infaticabile. Deambula per lo stabilimento con il cordless fuso all'orecchio e la sigaretta perennemente accesa. I produttivi non fanno le solite battute sulle presunte mollezze degli indiretti. Fa simpatia. Quello che nessuno sembra capire è che la fascia di mercato della Medri sono le imperfezioni del sistema. Si punta a risolvere vere o presunte emergenze senza rimuovere una volta per tutte le cause generanti. Lei emette stridule invettive, gesticola impazzita, dà tutta se stessa per l'azienda e si sublima fino a polverizzarsi. Non so fino a che punto sia una recita, non lo sa più nemmeno lei. Forse non riesce più a scindere ciò che è forma da ciò che è apparenza. Tutti in questo luogo presentano patologie, ma nessuno ammette malattie. Nessuno si cura. Basterebbe qualche farmaco, un regolatore dell'umore e del metabolismo. Basterebbe fermarsi un attimo, trovare il tempo per porsi le 6 domande maledette del sistema Toyota sulla propria esistenza. So cosa sono? Volevo essere questo? Sono nato così e, o, come le cause ambientali hanno modificato, rafforzato la mia indole? Perché parlo sempre e solo di cose molto concrete, su fatti lavorativi o familiari? Qual è il metodo più indolore per darsi la morte? Sono davvero le iniezioni di insulina? Basterebbe analizzare di volta in volta le anomalie che si verificano nel processo di produzione e spedizione del prodotto al cliente per individuare soluzioni definitive. Occorre poi definire linee di condotta da standardizzazione. In realtà tutto si riproduce a poche casistiche che si ripresentano ciclicamente. Il layout produttivo deve essere un sistema nervoso indipendente che non ha bisogno di interventi esterni, di miracoli umani. Basterebbe applicare la regola dei 6 perché di questi stronzi di giapponesi. Chiedersi 6 volte perché di fronte a un problema, fino ad arrivare alla radice del guasto. La gloria eterna della santa è assicurata dalla bolla di pressappochismo che ristagna. Quando 2 o più impiegate si siedono allo stesso tavolo in mensa, la discussione si avvita su questo argomento. Un giorno sulla tovaglietta di carta della Medri scrissi una frase. È vero, i vostri responsabili sono in realtà molto pigri, ma questo vi salva dall'epurazione. La scrissi in fretta, mentre si era alzata per andare a riempire la caraffa d'acqua. La scrissi sotto gli occhi della Frignani, ufficio estero, che interruppe la masticazione e mi fissò, con odio risentito e incredulo. Mi alzai dalla sedia quando la Medri fu di ritorno, ma non prima di aver lasciato il ritaglio di un bell'articolo di Astra sul suo cabaret. La Medri è una scorpioncina. Avete una personalità attraente, magnetica, dinamica. Potete perdere di vista la sensibilità altrui. Siete impulsivi e forti come la roccia. Non perdonate le debolezze di chi vi sta vicino. Sapete vendervi al prezzo più alto. State pensando che ho fatto di tutto per attirarmi addosso tutto l'odio possibile e che il mio vittimismo è fuori luogo, le mie ricostruzioni assurde e malate. In verità vi dico, meschina l'azienda che ha bisogno di gente come la Medri. Anche domattina non mi faranno sconti. Le operaie non sanno che per qualcuna di loro sarà l'ultimo giorno. Un turno di lavoro identico ad altri migliaia. Quando i giorni sono identici, il tempo di una vita brucia in fretta. Forse domattina la Morelli capterà qualcosa nell'aria. La Morelli ha il vezzo di arrivare per prima sul posto di lavoro con un largo quanto inutile anticipo, per ragioni imprecisate, ragioni che nemmeno lei saprebbe spiegare. Le persone con scarsi interessi e limitate aspirazioni trovano nel microcosmo aziendale una miniera di relazioni umane. La Morelli è una spia naturale, non ha coscienza di quanto i suoi atteggiamenti siano biasimevoli. Bassa e tarchiata, ha il seno grosso, ma a questo accumulo di grasso e acqua non è delegata alcuna funzione seduttiva. È una specie di arma di offesa-difesa. Non serve per allattare, serve a creare una distanza di sicurezza. La Morelli inizierà a fissarmi con la faccia bianca e senza espressione. Forse farà la domanda inopportuna, la più pericolosa. «Ma da dove te ne esci? Io arrivo sempre per prima e non ti ho visto». «Stefania, ho dormito in fabbrica, in uno sgabuzzino, negli uffici di sopra. Sei il solito idiota. Infatti...» Curioso, no? Basterà confermare il suo sospetto per disattivarne l'impianto. Dovesse ostinarsi nell'indagine, sarei costretto a darle un colpo mortale alla testa e chiuderla nello sgabuzzino delle donne delle pulizie. Potrei concedermi un piccolo prologo, giusto per prendere confidenza con la morte altrui e testare le mie reazioni. La Morelli non riesce a farsi gli affari propri, come la maggior parte delle femmine che infestano questo reparto. È una patologia impossibile da sradicare. Nella fabbrica post tutto, il management non deve curarsi dell'aspetto ordine pubblico. Vige un codice di autoregolamentazione tra schiavi che tronca sul nascere qualunque variabile pericolosa, il più piccolo anelito trasgressivo. Un servizio d'ordine naturale, un'intelligence capillare, che nessuna dirigenza sarebbe in grado di porre in atto. Sono processi istintivi legati allo schifo della natura umana che si esibisce in situazioni di assembramento casuale e in assenza di regole etico-morali, in particolare dopo l'estinzione delle ideologie di derivazione marxista. Ma non è la grande storia che ha dimostrato le difettosità di queste dottrine. Sono le piccole, misere storie individuali che, non coagulandosi più nella coscienza collettiva, si perdono in rigagnoli che trovano solo la fogna, decretando l'inconsistenza della teoria del buon selvaggio. Nessuna lotta di classe è più praticabile perché nessuno merita di essere salvato. L'ultimo assunto alla catena di montaggio non è migliore dello squaletto neolaureato che dopo qualche mese di trame è arrivato vicino alla cima dell'organigramma. L'operaio è solo meno attrezzato, più stupido e più crudele, sprovvisto di ammortizzatori culturali, spoglio di ipocrisie confortanti. Ogni maledetto giorno trascorso qui dentro ho potuto osservare in silenzio come le piccole vittime ribaltano la piccola clessidra per trasformarsi in piccoli carnefici. Il controllo è totale e si esprime su aspetti banali. Se dopo la mensa esco in macchina, qualche schiavo mi chiederà dove vado fino alla ripresa pomeridiana. Vado a casa a cagare? Vado al bar? Vado al mercato? Mi masturbo? Se mangio un panino, qualcuno ci metterà il naso a pochi centimetri per scoprire di cosa è imbottito. Una piccola stasi pronta a intercettare e mortificare comportamenti eccentrici, come mettere una foglia d'insalata in mezzo al prosciutto. Cosa butto nel cestino? Il grasso del prosciutto? Un capo reparto un giorno mi chiese perché non mi facevo mai vedere nei luoghi di aggregazione del paese. Cosa facevo la sera? Avrei dovuto risponderle col senno di oggi. che me ne stavo chiuso in casa a studiarmi la pianta dello stabilimento. Si tratta di bloccare dall'esterno tutte le uscite di emergenza, quelle con il maniglione antipanico. Si tratta di studiare il protocollo di gestione delle emergenze che è stato approntato nell'eventualità del sinistro più banale, l'incendio. È un documento pubblico, affisso in una bacheca posta al centro del corridoio degli uffici, comprensivo di fototessera, nome e qualifica. Esiste un comitato di crisi, dirigenti, personaggi di altro profilo. Si tratta di Marani, Mandracchia e Lupi. Seguono 8 addetti emergenza antincendio, reclutati tra i capi reparto, manutentori e portinai. Seguono gli addetti primo soccorso e gli addetti evacuazione. Gente pescata un po' a caso, tra gli operai più anziani. Potranno fare ben poco, se saprò gestire bene il fattore sorpresa. Bello sarebbe stato averle dato una risposta del genere. Ecco cosa facevo la sera. Studiavo. Il problema è che in una fabbrica non succede un cazzo. E agli operai non succede un cazzo nemmeno fuori. Tutto sembra degno di nota perché nulla lo è. Gli uomini diventano gnomi impazziti. Le donne hanno un aumento dei livelli di testosterone. Anche quelle più avvenenti assumono comportamenti imbarazzanti. Il timbro della voce si fa basso. Quando canticchiano le canzoni vomitate dai network privati, il pavimento trema. Quando lavoravo come tecnico del controllo qualità, gli operai produttivi li vedevo privilegiati. Prendevano più soldi per l'indennità di turno, erano completamente deresponsabilizzati, teste leggere, adepti felici del dio Sirena, che pone fine al supplizio quotidiano. Da silurato ho messo in scena il mio grottesco martirio. Credo per questo di essere mondato dal peccato originale. Credo di essere il migliore. Vedo ogni giorno esponenti della dirigenza e della middle class riuniti alla cerimonia del Gemba Tour delle 14. Loro sono i porci, i furbetti che hanno saputo muoversi bene. È consolatorio in quanto parziale questo livello d'analisi, ma dà un po' di forza, la forza dell'odio cieco. Naturalmente non è la verità. Ho conosciuto la condizione della middle class, più schiavizzata perché ricattabile. Mansioni che sovraccaricano d'ansia i centri nervosi. E solo in rari casi il reddito giustifica l'impegno. Non è mai una questione economica pura. I soldi veri si fanno fuori da questi luoghi, gestendo locali d'aperitivo dove si servono cocktail a 8 euro pieni di cubetti di ghiaccio o ristoranti pizzeria con materia prima scadente. È una questione di presunto prestigio. Le madri degli ingegneri saranno liete di raccontare le gesta della loro genia a vicini e parenti, poca cosa, in vero. Operai e ingegnerini frequentano le stesse discoteche, le stesse feste intercomunali, hanno gli stessi abiti e automobili. Ma ho bisogno di frizioni, di definire i campi, di riesumare una personale coscienza di classe ridotta a uno straccio, un'invidia sociale artefatta. Loro difendono altre posizioni, interessi che non sono i miei, scrivono standard work ai quali io mi devo attenere. Loro stazionano davanti a tabelle con dati riferiti alle forniture, alla produzione, alle richieste del cliente, alla qualità del prodotto. Ognuno deve rispondere secondo le proprie responsabilità al direttore di stabilimento. Un tempo, quando facevo parte del teatrino, commentavo i valori di FTQ, First Time Quality, qualità al primo colpo. Un rapporto tra la produzione e la difettosità di processo. Faccio il mio umile lavoro a pochi metri dal capannello del Gemba Tour. Sono esemplare, duro e puro. Posso fare un lavoro di merda, posso fare tutto. In realtà questo lavoro da bestia a cui mi hanno relegato è la mia benedizione. Non saprei fare di meglio. Fuori da qui c'è un mondo ancora più feroce. Sono fiero delle mie gambe buone. La mia schiena perfetta mi consente movimenti asimmetrici in un'unità di tempo spietata di un sistema immunitario che non mi fa cedere all'INPS. Sono duro e puro, un operaio produttivo da Building 2, uno che non si rammollisce negli onanismi delle materie umanistiche, uno che si guadagna i soldi del mutuo della casa all'inferno. Ho le palle, sudo acido e me ne frego. Non mi consumo di tisi e per l'amore non corrisposto di una cugina, passando infiniti pomeriggi nella biblioteca di famiglia. Sono di bassa statura, ma ho muscoli forti e vasodilatazione che nei mesi estivi mi intarsia agli avambracci, poi su verso i bicipiti e il deltoide. Prima di cominciare a tirare eroina, sollevavo 105 kg di panca piana e ancora oggi ho una buona fisicità. Faccio battute volgari, faccio il pazzo, cerco di mimetizzarmi. Non sempre ci riesco. Devo tenere alta la guardia. Da quando mi hanno degradato, posso permettermi il lusso di non salutare oscuri tecnici e impiegati con i quali dovevo tenere contatti quando militavo nelle fila dell'ufficio controllo qualità. Non ispiro simpatia. La gente mi gira lontano. Sono insopportabile. Non stimo nessuno. Questo luogo è abitato da forme di vita che detesto. La forza intellettuale di queste creature è interamente assorbita dall'impegno professionale, oltre il tornello, telecomando e carrello ipercop. Non sono più intelligenti di me, ma la mia capacità di intuire le meccaniche che regolano le relazioni tra gli attori di questa recita non mi è servita a elaborare strategie di offesa o di difesa. Sono lucido e inerme, in coma vigile, occhi spalancati che supplicano collirio e braccia incollate al corpo, panico da impotenza. Sono stati più scaltri di me, si sono mossi bene, hanno avuto stimoli e gratificazioni, hanno trovato e agito sui quadri di comando che per me erano solo tasti e lucine di un giocattolo. Loro sono i miei nemici, loro sono i paraculi. Li conosco, so tutto. E quello che non so, nei particolari, lo ipotizzo, a fronte dell'evidenza dei fatti. Non avrò pietà. Socchiuderò gli occhi e appoggerò il mio dito al grilletto. Questa azienda è una creatura immonda. Loschi figuri come l'ex capo reparto Franti galleggiano grazie a infiltrazioni di potere impossibili da decifrare. In taluni casi ci sono rampolli di famiglie bene del paese che raccolgono consenso e hanno buone carriere. Una multinazionale paesana è quanto di peggio possano immaginare sia un maniaco del mercato, sia un comunista pervaso di furore etico. Perché non ho chiesto al sindacato di difendermi nelle mie ragioni? Perché non ho cercato mediazioni, delegando i rappresentanti interni alla mia riabilitazione? È questo che vorreste chiedermi? Difficile definire il ruolo del sindacato centrale nelle vicende aziendali. È un sindacato partito che non segue alcuna direttrice nazionale e tiene la CGIL fuori dalle mura. Sindacato centrale e direzione formano un unico organismo, un mostro a due teste politicamente corretto, che sa ciò che è bene per noi cuccioli nati ciechi. Nelle assemblee, l'esposizione dei fatti è svolta dal delegato in modo ineccepibile. Argomentazioni inattaccabili. Armonia e concretezza. I pochi mugugni vengono espressi nei reparti. Meglio non compromettersi con frasi offensive nei riguardi del sindacato e della direzione. La delazione rimane uno degli sport più praticati. Non sempre chi la pone in atto è conscio della gravità del reato che compie. Il gioco delle parti prevede che durante le assemblee il delegato sindacale rivolga generiche critiche a fantomatici manager incapaci. Sono affermazioni molto vaghe e per nulla circostanziate, ma sostenute con forza. La voce del delegato tuona in sala mensa. Esprime biasimo verso quegli impiegati che non partecipano alle assemblee. In realtà gran parte di questi esemplari sono molto più isolati e ricattabili dell'operaio massa. La loro assenza non è da imputare a snobismo, bensì a qualcosa di molto simile alla paura. Il delegato lo sa benissimo, ma la sua è un'abile mossa di populismo che funziona sempre. Quando gli attacchi sono sferrati a cariche alte, il successo è assicurato. La regola di sempre, quella di identificare nemici che raccolgono in sé tutto il male, è imprescindibile. Un giorno venne citato, ad esempio, il caso di un dirigente del comparto commerciale che teneva la cornetta del telefono appoggiata sulla scrivania per non ricevere gli ordini dei clienti. Episodio piuttosto inverosimile, ma nessuno ebbe il coraggio di incalzare il delegato chiedendo altri dettagli. In concreto, non esiste alcun conflitto effettivo tra sindacato e direzione. Nelle riunioni non vengono mai proposte azioni concrete atte a intaccare le muffe e le assurdità che si vivono giù in officina. Nessuno lamenta mancanze del sistema produttivo, anche se palesi, nessun suggerimento, nessuna critica costruttiva, nemmeno dai rappresentanti interni che rimangono a braccia conserte, privi di espressione. Nessuno svela trame, corporazioni, mafie, correnti di acqua putrida che si gettano nel mare dell'officina. Nessuno denuncia ingiustizie. Massima omertà. Se qualcuno deve negoziare questioni private lo fa direttamente sul campo. Si cerca la protezione del capo reparto. Sono faccende delicate, in quanto a un privilegio ottenuto corrisponde a una situazione di ricattabilità. I contratti aziendali vengono approvati per alzata di mano, quando la sala è in totale stato di narcolessia. Al termine della relazione del delegato sindacale, nessuno interviene con domande e provocazioni. Quando succede, raramente, perché un filo di timore aleggia nella sala, si tratta di obiezioni innocue, facilmente neutralizzabili. Quante volte nei miei sogni a occhi aperti mi sono immaginato a intervenire duramente. Ma i miei pensieri sarebbero usciti sghembi, la mia voce sarebbe stata udita da pochi, come un flebile lamento, le frasi sarebbero uscite monche, con certe parole intrappolate nel mio saldo autoconvincimento. Nessuno avrebbe capito, non avrei creato scandalo, semmai scatenato qualche risatina di scherno. Si tratta di un curioso movimento sindacale che non ha mai appoggiato scioperi nazionali, non ha mai giocato alla lotta dura e pura, gestisce da sempre la lotta di classe come un'enorme bufala. Il tempo pare dare ragione a questa cinica visione. La contrapposizione rigida alla dirigenza sarebbe inutile, farebbe solo danni. Un generico buonsenso regola e seda rivendicazioni fuori dal tempo. Gli operai sono cuccioli nati ciechi, non sono l'avanguardia della lotta. Non ascoltano nessun cattivo maestro, si accoccolano sul prezioso contratto a tempo indeterminato, si tappano le orecchie e scacciano le mosche. Gli anni che si coagulano, intorno al 68 e al 77, sono implosi e non hanno lasciato tracce. Sono loro la vera avanguardia, in quanto avevano intuito il futuro. Non è nemmeno tempo di restaurazione. Il periodo delle contestazioni è stato completamente asportato, un cut-off, un taglia dalla storia e incolla da qualche parte nell'universo, fuori dai coglioni. Ma anche in questo caso non vedete colpe, palesi ingiustizie, nel senso che non individuate alternative. Qualcuno deve prendersi cura di noi, interagire con la direzione e mediare la schiavitù e darne una rappresentazione teatrale che non prevede alcun colpo di scena. Nessuna traccia fantasma. Tutto qui.